Il magico gattino. C'era una volta, in un regno felice, una regina, un re e la loro adorabile piccola principessa, Lea. Era la bambina più giocosa e adorabile di sempre. Un giorno, la regina era fuori in giardino con Lea e i suoi assistenti. Improvvisamente dai cespugli cadde un enorme e tozzo gatto, Ginger. Bu bu bu. La pelliccia del gatto era piena di foglie e terra e sembrava soffrire. Cosa? Oh, un gatto! Ah, oh, Sho! Questo gatto è troppo sporco! Va via, Sho! Sho! Il povero gatto si sentì molto triste e si voltò per andarsene. Ma quando lo vide andare via, la piccola Lea improvvisamente iniziò a piangere. Oh, cielo! Sembra che a Lea piaccia davvero il gatto. Teniamolo. Può essere il suo animale domestico. Quindi il gatto fu preso e portato nel palazzo. Lì le cameriere lo lavarono e lo pulirono a fondo. Curarono la sua zampa e infine gli misero un bel nastro al collo. Wow! Sembra semplicemente adorabile. Lea lo adorerà. Lea, vedi il bel gattino? Bu bu bu. Lea amava così tanto il gatto che non dormiva senza che fosse lì con lei. Piangeva all'infinito, fino a quando il gatto non andava da lei. Erano inseparabili e stavano sempre assieme. Dolcezza, non è sorprendente quanto sia forte il loro legame? Sì, davvero. Spero che questo legame continui a lungo. Quel gatto è l'unica cosa che rende felice Lea. Sì. Quella notte, quando tutto il mondo dormiva, il gatto si svegliò e scrollò le sue bende. Meow! È guarita! La mia ferita è finalmente guarita. Devo andarmene da questo palazzo. La mia dolce principessa dorme ancora. Grazie per la tua gentilezza. Non lo dimenticherò mai. La mattina dopo ci fu una caccia al gatto. I camerieri, gli addetti alle pulizie, i cuochi e tutti nel palazzo cercarono in ogni dove. Qui, gattino, dove sei? Dov'è finito questo stupido gatto adesso? L'hai trovato, caro? Sì, l'ho fatto. Vedi? È un peluche. Non è la stessa cosa? Oh! In questo modo, il gatto fu dimenticato dal palazzo. Passarono molti anni e la principessa Lea divenne una donna allegra ed estremamente bella. Adorava uscire per fare lunghe passeggiate nella foresta, per vedere i bei fiori e cantare con gli uccellini. Che bella giornata! Non lo pensi anche tu? Beh, sì, principessa. Oh, è bellissima! Oh, sì, semplicemente adorabile. Dormi, dormi, dormi dolcemente. Chiudi gli occhi e dormi profondamente. E con ciò i due assistenti stanchi caddero in un sonno profondo. Lei era molto felice perché adesso poteva andare dove voleva. Ah, libertà! Vediamo cosa troverò, andiamo un po' oltre. E mentre proseguiva, iniziò a cantare allegramente. La sua voce era gentile e dolce e attirava tutti gli uccelli canori. Ma attirò anche un gigantesco orco, molto cattivo, che viveva in quella foresta. Che bel suono! È da una signora così carina! Penso di volerla per me! La la la la la la! Lasciami andare! Ti porterò a casa e tu sarai mia moglie! No, no! Aiutatemi, per favore! Ma nessuno sentì le sue urla, perché era andata troppo lontano e i suoi camerieri erano addormentati. Così, la portò nella sua caverna oscura, la mise giù e lei cominciò a piangere. Ora sei mia! Smetti di piangere in questo modo! Non voglio nessuno di questi orribili suoni qui! Voglio che canti per me ogni singolo giorno! Da adesso canta! E la povera lei iniziò a cantare tra le lacrime, ma non c'era niente che potesse fare. La, la, la, la, la. La sera, l'orco assetato fece uscire Lea a prendere l'acqua dal torrente. Vai e porta questo secchio con te e non pensare nemmeno di scappare. Se lo farai, ti inseguirò finché non ti troverò. La povera Lea andò tristemente verso il ruscello. Quando arrivò lì, vide un gatto che dormiva su una roccia. Era lo stesso gatto con cui aveva giocato da bambina, ma lei non se lo ricordava. Oh, che carino! Qui, gattino gattino, vieni da me! Lea allungò la mano per toccarlo, ma lui saltò tra i cespugli. Oh, cielo! Immagino che non sia il mio giorno fortunato. Che cosa? Oh, sei venuto! Qui, vieni qui! Bel gattino! Oh, come sei bello! Vorresti essere mio amico? Non ho amici qui! E un cattivo orco mi ha rapita per farmi sua sposa! Non posso nemmeno scappare, altrimenti verrà a cercarmi! Ah, vorrei che potessi salvarmi! Vuoi, piccolo gattino? E mentre lo diceva, il piccolo gattino si trasformò in un bel giovanotto con i capelli rosso vivo. Ma c'era qualcosa di più strano in lui. Aveva le orecchie di gatto in testa e una coda che si agitava dietro di lui. Ah! Ah! Cosa sei tu? Chi? Per favore, non aver paura. Sono il principe Radley del vicino regno. Quando ero giovane, ero un bambino molto cattivo e quindi venni maledetto e mi trasformai in un gatto, costretto a rimanere in questa foresta. Ma deve esserci un modo per spezzare questa maledizione. Beh, c'è un modo. Devo fare una grande azione di gentilezza nei confronti di qualcuno e questo qualcuno non deve saperlo. Solo allora tornerò alla mia forma normale. Un atto gentile? Questo sembra molto... Principessa! Dove sei andata? Sto morendo di sete e tu sei scomparsa. Oh no, io devo andare. Addio. Aspetta, Lea. Oh no. Cosa? Aspetta, come fai a conoscere mio nome? Ma Radley si era nascosto tra i cespugli. Il pomeriggio successivo, quando Lea stava cercando di cucinare per l'orco, Radley saltò dalla finestra. Oh! Ciao, micetto. Intendo Radley. Ciao. Cosa stai facendo? Oh, niente. Cerco di fare qualcosa di buono per quell'enorme mostro. Le fragole stanno bene in una zuppa? Zuppa di fragole? Sì. Certo. Fantastico. Lasciami andare a prenderle. Adoro le fragole. E mentre Lea usciva alla ricerca di fragole, Radley vide davanti a sé la bottiglia di peperoncino. Mi chiedo se potrei solo... Ups! Oh, bene! Ho trovato le fragole! Ora mescoliamo tutto insieme! Questa zuppa sarà fantastica, vero? Oh, sì! Assolutamente super! Bene, devo andare da qualche parte. Incontriamoci al ruscello quando hai finito qui, ok? E con ciò saltò fuori dalla finestra. Principessa, dov'è la mia zuppa? Se non la porti ora, farò di te il mio pranzo reale. Ecco la tua zuppa. Ho provato a farla con tante cose deliziose. Potrebbe essere un po' dolce. L'orco sbuffò e si mise in bocca un'intera cucchiaiata di zuppa. Ma rimase scioccato perché la zuppa non era affatto dolce. Anzi, l'orco sentiva un incendio nella sua bocca. Oh, pizzica! Oh, che cosa hai messo in questa zuppa? Acqua! Acqua! L'orco corse fuori dalla grotta, verso il fiume, ma Redly lo stava aspettando. Si era allungato la coda e l'aveva legata ad un albero. Oh, brucia! Acqua! Ho bisogno di acqua! Eccolo che arriva! Adesso! Redly tirò la sua coda magica e l'orco, che correva a tutta velocità, inciampò nella coda e cadde dritto nel fiume. Fu spazzato via dalla forte corrente e non fu mai più visto. Oh, cosa è successo? Ho fatto sparire il gigante per te. Ora sei libera di andare. Davvero? È stupefacente. Oh, grazie, Redly. Oh, tutta questa faccenda è stata così spaventosa. Vorrei che non fosse mai successa. Redly era molto dispiaciuto per la povera principessa. Quindi le mise una mano sulla testa e la accarezzò dolcemente. Ti concederò questo desiderio. Non ricorderai nulla di quello che è successo con l'orco. Non temere di nulla e dormi profondamente, mia dolce Lea. Redly, che cosa stai... Gli occhi di Lea si fecero pesanti e presto si addormentò. Redly la prese e andò verso il palazzo. Quando arrivò lì, si fermò sotto la sua finestra e alzò lo sguardo. Questa via sarà davvero lunga. Tieni duro, Lea. Redly alzò la coda, su e su, fino a raggiungere la finestra della principessa. La strinse forte e tirò su tutti e due sani e salvi e una volta dentro la sistemò nel suo letto caldo. Dormi bene, mia principessa. Spero che ci incontreremo ancora. Quando Redly allungò la mano, improvvisamente iniziò a brillare e le orecchie e la coda da gatto scomparvero dal suo corpo. La maledizione era sparita nel momento in cui Redly aveva salvato la principessa Lea dall'orco e aveva cancellato la sua memoria. Io sono di nuovo un normale essere umano. Sono libero. Oh, oh, oh. E tornò felicemente nel suo regno. La mattina dopo, quando la principessa si svegliò, il re e la regina irruppero nella stanza. Figlia mia, dove sei stata? Lea, oh Lea, stai bene? Ma Lea non ricordava nulla. Fu molto scioccata nel vedere i suoi genitori in piedi davanti a lei preoccupati. Cosa c'è che non va? Perché siete preoccupati? Ho fatto un sogno così strano. Ho sognato un gatto e un orco e un uomo molto bello. Mi chiedo chi fosse. Col passare dei giorni, il re e la regina notarono che la loro figlia non era più la stessa. Sembrava essere sempre in un sogno. Mi sembra di aver dimenticato qualcosa di molto importante. Ma non so cosa sia. La nostra povera figlia non sembra essere felice. Cosa pensi che dovremmo fare? L'unica cosa che non abbiamo provato è il matrimonio. Oh, facciamolo! Potrebbe essere in grado di trovare la felicità in qualcuno da amare. Quindi il giorno dopo, principi di molti regni vennero a vederla. Lea li guardò tutti, ma non gliene piacque nemmeno uno. In quel momento arrivò Redly. Mentre sorrideva e si inchinava, Lea fu molto sorpresa. Tu sei il principe che ho sognato! Sono lusingato, Altezza. Significa che hai scelto di sposarmi? Solo se puoi dirmi ciò che amo di più. Solo allora ti sposerò. Oh, fammi indovinare. Sono... le fragole? Come facevi a saperlo? Solo una semplice ipotesi. E presto si sposarono e vissero felici e contenti. Lea amava Redly con tutto il suo cuore. Adottò anche un gattino. E per quanto riguarda Redly, non le ha mai parlato del passato. Alle volte è meglio tenere certe cose per se stessi.